Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentrovati a questa piccola rassegna stampa europea, e iniziamo da un tema che sarà un po' su tutti i giornali, ed è quello delle elezioni europee del 2014, che vedranno naturalmente anche il cambio del presidente della commissione, che è un po', se vogliamo, il premier europeo. Titola per esempio il quotidiano Adevarul di Bucarest: la successione a Barroso è già cominciata. Manuel Barroso è appunto l'attuale presidente della Commissione europea, e ci sono già delle speculazioni su chi potrebbe essere il suo successore. Con le elezioni europee del 2014, la carica di presidente della Commissione potrebbe assumere un'importanza molto maggiore dell'attuale. A Bruxelles, socialisti e popolari si preparano per la prima volta a una campagna elettorale con candidati e programmi. Scrive appunto il quotidiano di Bucarest, il quotidiano romeno: le candidature cominciano a prendere forma. La lotta sarà serrata e le sue conseguenze saranno molto importanti, perché secondo la maggior parte degli esperti di Bruxelles, le elezioni europee del 2014 porteranno cambiamenti importanti rispetto alle precedenti, soprattutto nel tradizionale equilibrio tra le grandi famiglie politiche che finora hanno dominato sulla scena politica dell'Unione Europea. Leggiamo ancora una parte, poi comunque lo trovate online, questo articolo è anche tradotto sul sito presseurope.eu, che è il sito che si occupa uno dei siti che si occupa del monitoraggio della stampa europea, insieme naturalmente a Euronet. E quindi prosegue l'articolo: un risultato che sarà influenzato dai grandi cambiamenti provocati dalla crisi economica, l'altro grande tema, ma anche dalla comparsa di una forte diffidenza nei confronti della capacità di governare dell'attuale classe politica. E a proposito un po' di tutte le difficoltà che la classe politica dei singoli paesi e anche quella europea deve affrontare, c'è naturalmente il tema dell'immigrazione e quindi dell'integrazione. E a questo proposito vi segnalo un articolo di Foreign Affairs, che è il mensile americano un po' di riferimento per chi ragiona su questioni politiche, perché si cerca sempre di dare un quadro il più generale e articolato possibile. Questa volta Foreign Affairs si occupa proprio dell'integrazione europea e dice: impariamo dalla Svizzera. L'integrazione dell'Unione Europea dovrebbe prendere a modello il lento e graduale sviluppo della Confederazione Elvetica, che ha garantito equilibrio tra i poteri e consenso da parte dei cittadini. Vi leggo la prima parte di questo articolo, che trovate online in inglese naturalmente sul sito di Foreign Affairs. La storia ci offre pochi esempi rilevanti di federazioni politiche di successo. E anche qui aggiungo io, anche questo, no? Un grande tema, quello del federalismo, che in alcuni paesi in Europa, la Confederazione Elvetica, ma naturalmente anche la Germania, hanno ormai collaudato, e di cui si parla tanto anche in Italia, soprattutto per quanto riguarda la parte fiscale. Dicevamo quindi, la storia ci offre pochi esempi rilevanti di federazioni politiche di successo. Negli anni 80 del Settecento, nel periodo in cui furono una federazione, gli Stati Uniti erano un pugno di stati nati da poco e scarsamente popolati, con cultura e lingua comuni, e di conseguenza non si prestano a fornire insegnamenti di rilievo per l'Europa di oggi. L'esperienza della Svizzera ne offre molti di più, uno dei quali è la gestazione lenta. Una federazione richiede tempo, dice l'ex diplomatico svizzero Jakob Kellenberger. Sono corsi secoli prima che le persone che vivono nei cantoni svizzeri si conoscessero a vicenda, e poi c'è voluto un lungo periodo di confederazione prima di arrivare alla federazione piena nel 1848. Secondo Kellenberger, la federazione svizzera funziona perché il centro ha saputo rispettare pienamente l'autonomia dei cantoni, mai particolarmente ansiosi di cedere integralmente la loro autorità, ed è sempre stato attento a non abusare dei propri poteri. Tutti i poteri non specificamente delegati al governo federale della Costituzione svizzera, oltretutto, sono rimasti di pertinenza dei cantoni. Un tema, insomma, veramente interessantissimo. Tra l'altro il Foreign Affairs entra poi nei dettagli di quella che è oggi la struttura politica dell'Unione Europea, di cui sappiamo, tante volte abbiamo detto, probabilmente ci vorranno degli aggiustamenti per renderla appunto più consona a quella che è poi la struttura così eterogenea degli stati che compongono l'Unione Europea. Ma passiamo a un altro argomento molto diverso, e però anche qui le questioni ambientali, il rapporto con il territorio, con le persone che poi subiscono i cambiamenti imposti dall'industria all'ambiente. Ecco, su questo tema, di questo tema parla il quotidiano Adevarul di Bucarest, Rosia Montana è un problema europeo. Questo è il titolo. Cos'è Rosia Montana? È una miniera di oro e argento, scrive il quotidiano. Diversi deputati europei ungheresi e romeni, tra cui l'ex vicepresidente dell'Assemblea László Tokes, si sono rivolti alla Commissione affinché si opponga all'avvio dello sfruttamento della miniera d'oro ed argento. Sì, già nel 2010 il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di vietare l'utilizzo nel cianuro delle miniere, quindi il tema è quello della sicurezza dell'attività delle miniere, sia per chi ci lavora, sia per tutte le persone che abitano nei pressi di queste miniere. Scrive ancora il quotidiano: il 2 settembre Budapest ha scritto a Bucarest e Bruxelles per opporsi alla riapertura di Rosia Montana, nel timore di una nuova catastrofe ecologica vicino alle sue frontiere. Nel 2000, infatti, a Baia Mare, 100.000 tonnellate di cianuro si sono riversate nei fiumi Somes e Tisza, provocando una catastrofe ecologica che ha colpito anche l'Ungheria. E ancora un altro tema diverso, questa volta raccontato da un quotidiano di Varsavia, il Rzeczpospolita. Scusatemi, ma ovviamente è difficile per noi pronunciare bene e avvicinarci a tutte queste lingue diverse. Altro tema interessantissimo, quello appunto del multilinguismo in Europa, di cui abbiamo parlato in passato in questa rassegna. Ebbene, appunto, questo quotidiano di Varsavia scrive un articolo che si intitola "I nostri reperti spariscono nell'Unione Europea", e questo è il tema. Qui ci leghiamo al tema della libera circolazione delle persone e anche delle merci, che fa parte del famoso accordo di Schengen. Scrive il quotidiano: l'assenza di confini all'interno dello spazio Schengen ha i suoi risvolti negativi, e così i capolavori nazionali polacchi spariscono senza lasciare traccia. Fin dalla Seconda Guerra Mondiale, la Polonia è stata derubata di migliaia di opere d'arte che potrebbero non tornare mai sul nostro territorio, spiega un esperto d'arte citato da questo quotidiano. Secondo i dati più recenti, negli ultimi 20 anni più di 8.500 opere d'arte polacche sono state rubate o contrabbandate fuori dal paese. Passiamo a un altro tema, questa volta più economico. Sapete, i grandi malati europei sono il Portogallo, la Spagna, la Grecia naturalmente, e eravamo anche noi fino a poco tempo fa. Ora tutti parlano di questa luce in fondo al tunnel. Ecco, il Diario de Noticias, che è un quotidiano portoghese, parla appunto della crisi economica del paese. Il titolo è "Il nuovo piano per il Portogallo sarà più duro di quello irlandese". Per assicurarsi un futuro, il Portogallo dovrà firmare a giugno 2014 un nuovo accordo con la Commissione europea e la Banca Centrale europea, quando scadrà l'attuale intesa con la Troica UE, BCE, FMI. Diario de Noticias sottolinea che il vario grado di severità delle condizioni del nuovo piano dipenderà dallo stato dell'economia del paese e dal livello di stabilità politica, ma per Lisbona i termini dovrebbero essere più duri rispetto a quelli stabiliti per l'Irlanda, aiutata dal suo stadio di ripresa economica e dalla stabilità della struttura politica. E siccome, insomma, siamo italiani, vi segnalo un ultimo articolo, temo ci sia spazio ancora solo per questo. È un articolo pubblicato dalla Süddeutsche Zeitung, uno dei principali quotidiani tedeschi, un quotidiano Süddeutsche, appunto, quindi di Monaco di Baviera. Il titolo è "In vacanza per sempre" e riguarda un tema di cui, tra l'altro, si sono occupate anche molte trasmissioni qui a Radio 24, ed è quello delle persone che, tornando dalle vacanze, hanno trovato la loro azienda chiusa. Scrive Thomas Fromm: al ritorno dalle ferie molti italiani non hanno più ritrovato il loro lavoro. Pressati dalla crisi, gli imprenditori hanno approfittato della loro assenza per chiudere o delocalizzare le aziende. Vi leggo la prima parte dell'articolo, poi lo trovate online. Agosto è il mese in cui l'Italia dimentica il mondo circostante, il mese in cui un intero paese va in vacanza. 4 settimane dedicate agli amici, alla famiglia, alla spiaggia, al bar e al sole, e poi, appunto, le brutte sorprese. Purtroppo era veramente l'ultima notizia che riusciamo a segnalare. Vi do appuntamento a settimana prossima. E vi auguro un ottimo sabato. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.